versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui in diretta agli studi di Milano della radio. Vi saluto e vi ringrazio Oscar Giannino, come sempre indirizzo versione di Oscar @radio24.it per proporre temi di puntate, argomenti per esprimere critiche, e vado subito al punto, siccome sono già 16:31 e 40 secondi della puntata di oggi, chiedendovi di intervenire se lo ritenete all'800240024 349-238-6666 per gli sms, in particolare se siete amministratori di comuni, poi anche se siete magari consiglieri regionali, non dico di no, ma so che quello è più difficile, ma se siete amministratori di comuni vorremmo che interveniste oggi con le vostre telefonate, perché tenteremo di fare un punto su una questione di fondo. Sapete che in vista del documento economico finanziario che dovrebbe essere varato venerdì e di cui sono stati anticipati alcuni elementi martedì, i comuni e le regioni hanno immediatamente, questa volta senza aspettare neanche il varo del documento, iniziato a sparare a zero contro il governo. C'è stata in fine mattinata l'incontro tra l'ANCI e il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Matteo Renzi ha detto ai comuni: ma perché strepitate, non ci sarà nessun taglio verso i comuni. Non si capisce bene, ma lo vedremo venerdì, che cosa c'è davvero nel DEF, visto che le tasse non dovrebbero aumentare, non ci dovrebbero essere tagli, non ci sono tagli neanche per i comuni, però 10 miliardi di tagli almeno dice che ci sono, e quindi bisogna vedere poi a chi sono imputati. Ma la domanda di oggi è: chi ha ragione e chi ha torto tra comuni, regioni e Stato centrale? Prima questione, chi ha avuto tagli maggiori in questi anni? Vedrete, vi faccio qualche numero, ma la questione è molto aperta, perché come sempre in Italia sui numeri si balla, non ci sono cifre attendibili che vengano riconosciute dagli uni e dagli altri, per quanto sia ridicolo dirlo, ma è così. Seconda questione, hanno ragione i comuni e le regioni a dire che se arrivassero nuovi tagli a questo punto devono tagliare i servizi, e già hanno tagliato dei servizi in realtà, come se non ci fosse spesa corrente impropria da tagliare? Hanno ragione o hanno torto secondo voi? Terza cosa, ha ragione Chiamparino che a nome delle regioni dice: ma il governo non ci rompesse le scatole, scusate, non l'ha detto così ovviamente, ma non intervenisse sulle partecipate locali di comuni e regioni, perché tanto lì non c'è niente da risparmiare, cioè da accorpare ma non da tagliare e risparmiare? Ecco, su queste tre domande diteci la vostra, soprattutto se siete, ripeto, amministratori comunali. Perché? Qualche cifra, per trovarle più estese, se andate sul sito www.leoniblog.it c'è un lungo articolo in cui ci sono anche rimandi a molti documenti. Tentiamo di capire, prima di andare al nostro ospite e di aspettare le vostre telefonate, quali sono le cifre più verosimili di quello che è successo in questi anni e di come sono stati ripartiti i tagli tra comuni, regioni e Stato centrale. Partiamo da un presupposto, che bisogna stare attenti sulle cifre degli interventi pubblici delle finanziarie. Perché? Perché la politica, secondo la legge di contabilità nazionale, vi dà i tagli accumulati di finanziaria in finanziaria, che però sono fatti sulla spesa tendenziale, non sono sulla spesa reale, quindi i tagli sembrano molto maggiori di quelli che sono in realtà, perché essendo fatti sulla previsione di crescita della spesa dell'anno successivo, si taglia magari una cifra che può apparire molto rilevante ma che è inferiore alla spesa aggiuntiva che si dovrebbe verificare l'anno successivo, con il risultato che la spesa reale in realtà di anni in anni continua a salire. Quindi primo caveat da questo punto di vista, perché infatti se vediamo le manovre accumulate tra 2008 e 2014, quindi escludiamo quella dell'ultima legge di stabilità che è in vigore da qualche mese, però addirittura le manovre accumulate dall'ultimo governo Berlusconi fino a Renzi ammonterebbero addirittura a 122 miliardi di euro. Ripeto, non si tratta di interventi sulla spesa reale dell'anno prima e l'entrata dell'anno prima, perché sennò, come capite, avremmo risolto il problema della finanza pubblica italiana, e sul tendenziale. Di questi 122 miliardi, per il 55%, cioè per 67 miliardi, a parole, vi spiegherò perché poi a parole, sono stati fatti con minori spese. Il 45%, cioè per 55 miliardi di euro, con maggiori entrate. Ricordatevi che questo a parole significa, dopo che vi ho dato due cifre sulla ripartizione tra Stato centrale, comuni e regioni, che in realtà i tagli di spesa a comuni e regioni sono stati per più di un terzo recuperati da comuni e regioni, perché come sapete lo Stato gli taglia le cose e poi naturalmente localmente si aggravano le aliquote e le sovraaliquote di competenza locale. Vedere il mattone, la tassa sulla tassazione sul mattone passa da 9 miliardi a 8 del 2011 a oltre a circa 26 miliardi nel 2014. Tuttavia, se andiamo a vedere questa minor spesa sul tendenziale, non sulla spesa reale, per 67 miliardi tra il 2008 e il 2014, come è stata ripartita? Ecco, è stata ripartita per il 36% su amministrazione centrale, e di questi 23,8 miliardi però guardate che il 60% sono state meno spese per investimento, non meno spesa corrente, sempre sul tendenziale, il 36% quindi sullo Stato centrale, il 48% sulle autonomie locali, regioni, comuni e province, resta fuori un 16% che sono gli enti pubblici sottoposti al MEF. Se quindi guardiamo la percentuale, si capisce che sulla percentuale in realtà le autonomie locali, cioè regioni, comuni e province, hanno una certa ragione nel dire che i tagli sono stati molto più su di loro che sullo Stato. Perché? Perché se andiamo a vedere sul totale della spesa pubblica, lo Stato centrale, anche qua bisogna stare attenti perché la spesa pubblica ha diversi criteri di ripartizione, però se andiamo a vedere la ripartizione tra Stato, Regioni, Province e Comune sul totale della spesa pubblica, noi troviamo che le proporzioni non sono rispettate rispetto all'imputazione dei tagli, perché lo Stato centrale, e lasciamo fuori nella spesa dello Stato centrale le pensioni, perché la previdenza è quasi il 40% della spesa pubblica da solo, ma se leviamo quello, lo Stato centrale è quasi il 30% della spesa pubblica, mentre i comuni sono l'8%, le province erano addirittura l'1,3%, sulle regioni bisogna un secondo riflettere, perché le regioni sarebbero il 19%, ma di quel 19% la metà è la sanità. La sanità ha una regolazione, una trattativa a parte sul Fondo Sanitario Nazionale rispetto alla spesa corrente delle regioni. Quindi, prima conclusione è: in effetti le autonomie hanno ragione, non hanno torto, sia pure nell'approssimazione di queste cifre, nel dire che lo Stato centrale ha tagliato più loro dal 2008 a oggi di quanto non abbia inciso su se stesso, e del resto è la conferma anche nella legge di stabilità di Renzi per il 2015, dove ci sono 1,7, un po' meno di 1,8 miliardi in capo di minor spesa, sempre tendenziale, in capo allo Stato centrale, mentre ce ne sono 5,8 in capo alle autonomie. Quindi, come vedete, anche nella legge di stabilità quest'anno lo Stato centrale ha chiesto alle autonomie tre volte tanto quanto ha deciso per se stesso. Seconda domanda: ma hanno ragione o torto i sindaci e i presidenti di regione a dire dobbiamo tagliare i servizi perché la spesa corrente oramai è all'osso? Allora, qua bisogna distinguere, però l'invito che vi faccio è andare sul sito revisionedellaspesa.gov.it, dove ci sono i PDF dei documenti finali dei gruppi di studio consegnati a Cottarelli un anno fa, oggi pubblicati, sull'analisi della spesa comparto per comparto e sulle proposte per intervenire con una razionalizzazione, una diminuzione, però con effetti non recessivi. Troverete sul rapporto dei comuni e su quello delle regioni, che trovate a quell'indirizzo, una grande discrasia, perché quello dei comuni è fatto molto meglio e troverete un'analisi della spesa corrente dei comuni fatta sia per classi dimensionali dei comuni, fatta sia per criterio geografico nord, centro, sud, nella quale troverete che per molte voci di spesa, cioè spese per software, hardware per dipendente, costi dei dipendenti, costi di assicurazione dei mezzi dei comuni, costi di riscaldamento dei comuni, che naturalmente sono diversi anche tenuto conto del fatto che il clima è diverso, eccetera, costi per consulenze prese dai comuni, troverete indicate delle cifre che indicano un coefficiente di dispersione, cioè delle variazioni fino al 400% e oltre, nell'analisi di quei 6.900 comuni che è stata condotta da quel gruppo di studio. Quindi la conclusione da trarre è che nella spesa corrente, non nei servizi, di un bel po' di soldi ancora da individuare su come ottimizzare l'amministrazione, è molto possibile, soprattutto nei grandi e grandissimi comuni dove si spreca ancora tantissimo, e con l'appendice però di non dimenticarsi che nelle migliaia di piccolissimi comuni, lì davvero invece la spesa è diventata sempre più elevata rispetto alle pochissime risorse a disposizione. Quindi ci sono problemi, non bisogna generalizzare in tutto. Invece nel rapporto delle regioni tutto questo non lo troverete, perché le regioni, avendo sottoscritto nel 2012 con il governo Monti un finto accordo sui costi standard, finto perché mette nel campione anche regioni con costi totalmente disallineati, le regioni su questo pongono un muro a ulteriori tagli. Ma se fate un paragone tra i bilanci che ancora oggi non sono redatti secondo criteri comparabili, troverete anche lì molte regioni in cui c'è moltissima spesa corrente su cui incidere, ma veramente moltissima, e quindi anche su questo la risposta da dare è no, non hanno ragione però loro, che pure hanno avuto più tagli dal governo centrale, a dire che a questo punto tagliamo i servizi perché non c'è spesa corrente su cui tagliare. Ce n'è. Infine, ultima cosa, qui sulle partecipate ha torto Chiamparino a dire che lì non c'è niente da risparmiare. Anche in questo caso andate sempre sul sito revisionedellaspesa.gov.it, troverete le slide di Cottarelli su un'analisi precisa, sono più di 45 pagine, delle circa 10.000 partecipate locali, le troverete per classe di settori in cui operano, per classe dimensionale eccetera eccetera, troverete 33 precise proposte dalle quali discende una stima di risparmio di testuale almeno 2-3 miliardi di euro l'anno, perché di quelle 7.000 si individua quale, quelle piccolissime che hanno più amministratori che dipendenti, chiudere, quali altri cedere, quali altri accorpare, quali criteri nazionali mettere per il TPL, del trasporto pubblico locale, che è un settore che grava molto ovviamente sulla responsabilità degli enti locali e che ha enormi problemi di costi rispetto ai sussidi pubblici eccetera eccetera. Però anche in quel caso è falso dire che non c'è niente da fare, e soprattutto troverete una beffarda citazione nella prima pagina delle slide di Cottarelli, che sono di un anno fa, del Presidente del Consiglio Renzi, perché fu Renzi, 18 aprile del 2014, a dire che l'obiettivo del governo era diminuire le partecipate da circa 10.000 a 1.000, che non è un numero casuale, ma sono le partecipate locali in Francia, che pure non è un paese poco statalista. Ecco, queste sono le indicazioni per capire chi ha ragione e chi ha torto, distinguendo, perché ripeto, i comuni piccoli non sono i comuni grandi che hanno ancora enormi sprechi, e ricordandoci che le regioni fanno muro, ma hanno secondo me enormi torti per la concentrazione di spesa che rappresentano, ricordando ancora che la sanità è una trattativa a parte. Lo so che sono numeri noiosi, ma però per capire bisogna sempre partire dai dati numerici. Adesso, per capire meglio, abbiamo con noi un amministratore che è un amministratore, per così dire, atipico, perché appartiene a quel piccolissimo numero di sindaci che in questi ultimi anni si sono battuti contro la tendenza che vi ho ricordato all'inizio, e che in realtà fa delle manovre di questi ultimi anni, manovre molto più fiscali che di tagli di spesa, perché sul totale dei tagli di spesa a comuni e regioni si è strizzato l'occhio dicendo ai comuni poi vi rifate con le tasse locali, ed è il sindaco di un comune, Pontinvrea si chiama il comune, lo abbiamo già ascoltato più volte su Radio 24, ha detto con una lista civica, che addirittura ha citato in tribunale la presidenza del Consiglio e il Ministero delle Finanze per accertare l'illegittimità costituzionale delle imposte sulla casa, cioè si è rifiutato di dire io non faccio il sostituto di imposta maggiore per conto del governo centrale, e quindi non ha mai applicato l'IMU sulla prima casa, non ha applicato la TARES, la TASI, e ha ottimizzato però gli altri servizi come la raccolta dei rifiuti per stare nelle spese, quindi non è solo uno che fa polemica pubblica contro le più tasse delegate agli enti locali, è anche uno che ottimizza, e io lo ringrazio per questo, Matteo Camiciotto, il sindaco appunto ribelle, per così dire, di Pontinvrea. Buon pomeriggio signor sindaco. Buon pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori, Giannino. Innanzitutto, a che punto sta la contesa giuridica, per così dire, con lo Stato centrale? Ma noi il 31 di marzo abbiamo avuto la prima udienza al Tribunale di Genova, non è stato rigettato il nostro ricorso ed è stata fissata l'udienza per la discussione il 29 settembre 2015. Noi avremmo preferito un po' prima, però siamo già contenti del fatto che non sia stata rigettata. Esatto, ecco, perché ci poteva essere il dubbio che il giudice dicesse no, voi non siete in condizioni di intentare azione allo Stato centrale. Secondo lei, ecco, per quello che può vedere dal bilancio del suo comune, dalle risorse, dei tagli che avete avuto nei trasferimenti e dalle spese che dovete sostenere, ci si può stare facendo i miracoli, ci si può stare anche senza miracoli, e ha torto chi dice che non ci si può stare? Allora, dal mio punto di vista si ci può stare facendo non i miracoli ma i buoni amministratori, perché non si parla di miracoli quando si riesce a far quadrare bene un bilancio. Io le dico, il nostro comune, vorrei sfatare subito una questione, cioè tutti dicono che il piccolo comune è più facile fare certe cose, non è vero, perché il piccolo comune ha meno risorse, quindi se tu gliele tagli è in proporzione ai grandi comuni. Questo perché comunque io ho dei colleghi di grandi comuni che mi hanno detto queste cose. No, no, ma è vero, e anche i numeri comparati del rapporto che tutti possono leggere che ho citato prima confermano quello che lei sta dicendo. Esatto, poi c'è una tendenza di questi, direi, ultimi tre governi principalmente, ad andare a tagliare sulle amministrazioni comunali dicendogli andatevi a prendere, come diceva lei prima, i soldi dai cittadini. Noi ci siamo rifiutati di fare questa cosa perché oramai i cittadini non ne hanno più. Io credo che il governo dovrebbe fare invece dei tagli come quello delle partecipate. Guardi, non tanto tempo fa è venuto da me un consigliere di un comune da noi limitrofo dicendomi che è disperato perché il suo comune adesso nell'ambito dell'ATO, cioè per il servizio idrico integrato, dovranno aderire a una partecipata che ha 240.000 euro di debiti, e quindi loro prenderanno in quota già i debiti di quella fatti da altri. Quindi poi li scaricheranno sui cittadini. Quindi credo che sia palese che alcuni servizi debbano essere, soprattutto nei comuni piccoli, gestiti in house, gestiti in casa. Perché l'esempio palese, che io non riesco a darmi spiegazioni quando sento gli altri colleghi che dicono che devono aumentare la tassazione sui rifiuti, ad esempio, noi abbiamo applicato un metodo di raccolta differenziata porta a porta forzato, che senza quindi più nessun tipo di filostrada come cassonetti, ci ha portato dal 20% al 65% di come percentuale di differenziata, ma ci ha portato un risparmio di 40.000 euro nelle casse comunali. Che in un piccolo comune sono la differenza. Allora, come vedete, in realtà si può. Io non credo che siano eccezioni. Certo, bisogna essere molto dediti al bene pubblico in un piccolo comune, perché non è che poi avete chissà quali soldi in tasca per quello che fate, però si può fare. Allora io chiedo a Matteo Canciotto di restare lì, perché già vedo che dopo i 60 secondi di informazioni sulle strade che partono adesso ci sono delle telefonate, e vorrei che fosse proprio lui, il sindaco di Pontivria, poi a commentarle per noi. Strade. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, 16:50 primi, a parlare della ripartizione dei tagli. Se hanno ragione o torto chi rappresenta tutti i comuni e regioni a dire che sono stati troppi, che bisogna tagliare i servizi. Abbiamo un sindaco di un comune piccolo. Sì, ho scelto il comune piccolo perché la stragrande maggioranza sono i comuni piccoli nel nostro paese, quelli a cui in realtà i tagli sono stati più pesanti rispetto al fatto che non hanno chissà quante risorse da ottimizzare, e per dimostrare che si può fare. Lui dice di sì e addirittura si batte contro l'aumento delle imposte delegatogli dallo Stato. Ma sentiamo le vostre telefonate. Cominciamo con Sergio, che ci chiama dalla provincia di Fermo. Prego, Sergio. Ciao Oscar. Eccoci. Ciao, sei un mito, sei riconoscibile. Vabbè, allora andiamo al punto. Senti una cosa, dunque, io sono stato amministratore per 15 anni in un piccolo comune, e so che c'è una legge fatta per incentivare i piccoli comuni ad unirsi, soprattutto quelli sotto 5.000 abitanti. Ma questa legge sembra che sia un po' così timida. Lo Stato non fa molta pubblicità, eppure risolverebbe tante cose, miliardi di sprechi. Perché l'idea è, con le esigenze che c'è oggi di obblighi, esigenze degli ultimi 10 anni, l'ideale è almeno 10.000 abitanti, amministrare l'ente locale almeno 10.000 abitanti. Diciamo Sergio che se non si ha un livello minimale di abitanti non c'è una dimensione minimamente ottimale dal punto di vista economico, soprattutto per l'offerta dei servizi. Però poi torniamo al commento del sindaco Camiciottoli, perché Camiciottoli ci ha detto attenzione, perché a volte anche la messa in comune di servizi significa prendersi in carico poi debiti fatti da altri. Quindi sentiamo poi come la pensa lui sulla legge che citi e su gli effetti che può avere. Sentiamo anche l'opinione di Alberto, che ci chiama da Firenze invece. Prego Alberto. Sì, buonasera. Grazie per essere, per avermi chiamato. Sì, figuri. Per risolvere il problema, a mio giudizio, è tanto semplice, perché è incominciato da Monti, Letta, ora l'attuale governo, a tassare la popolazione che non ne può più, ma basta dare al comune la vecchia funzione istituzionale. Il comune deve essere comune, non deve essere imprenditore. Oggi il comune, basta vedere la sede, ha preso l'aspetto di una multinazionale distributrice di appalti, solo questa fa il comune. Poi per ragione di lavoro io ho notato che si può evadere le imposte, si può evadere tante cose, si possa, anche la giustizia, perché pure di quelle ne ho avuto a che fare, si possono evadere tante cose tranne evadere al comune, perché il comune ti scrive all'anagrafe e ti aspetta, seppure uno è un nullatenente, non fa niente, il comune c'ha pazienza e lo aspetta alla morte con la SPA Loculum Loculi, con la SPA Lampe Devotive. Quindi mi pare che lei ce l'abbia con le partecipazioni comunali, per così dire, se ho capito, se ho capito bene. Naturalmente qui stiamo parlando di comuni medio grandi soprattutto, perché lì, lì si accentra la grande questione delle partecipate, non nei micro comuni. Sentiamo il sindaco Matteo Camiciottoli. La legge che incentiva gli accorpamenti dei comuni sotto i 15.000 abitanti, dal suo punto di vista è una strada che andrebbe battuta di più? Ne possono derivare anche efficienze sulla gestione dei servizi in comune oppure no? Allora, lei quando è uscita la questione del decreto Delrio, io sono stato credo l'unico sindaco che si è rifiutato di fare le unioni dei comuni così come erano proposte dal decreto Delrio, tant'è vero che ero pronto a farmi commissariare, poi c'è stato uno slittamento al 2015 da parte del governo, perché probabilmente si sono accorti che la legge non era poi così ben fatta, perché le unioni dei comuni obbligatorie sono la più grossa, mi lasci passare il termine Giannino, porcheria che si possa fare, nel senso che non si può pensare di andare nei comuni piccoli a fare un'unione obbligatoria per arrivare a comuni da 10.000-15.000 abitanti. Io le porto l'esempio del mio territorio, sarebbe la perdita totale dei servizi sul territorio e un aumento di costi, tant'è vero che laddove già negli anni passati, perché qua parliamo delle unioni, si parla già da tanti tanti anni, le unioni vengono finanziate, quindi non si crea un risparmio. Perché se dobbiamo creare un risparmio non dobbiamo finanziarle le unioni, ma devono autofinanziarsi, no? Con i tagli della spesa e quindi poi per i maggiori servizi ai cittadini. Ma questo non accade perché le unioni sono sovrastrutture comunali che accentrano tutto e fanno perdere i servizi sul territorio, soprattutto in territori, e le porto l'esempio della Liguria, dove i comuni, soprattutto nell'entroterra, sono talmente distanti che i servizi verrebbero a perdersi. Avremmo un abbandono sistematico dei territori con tutti i problemi idrogeologici, faccio l'esempio sempre della Liguria che mi sembra che problemi ne abbia tanti, e non ci sarebbe un vero risparmio. Il governo voleva fare e vuole tuttora fare questa legge semplicemente perché se arriviamo a comuni da 10-15 mila abitanti mettiamo la bandierina del partito sopra ai comuni. Cioè lei dice non sono più comuni per le cui elezioni sarebbero svolto liste civiche. Esattamente. Esatto. Quindi, e poi voglio dire, c'è una palese, tant'è vero che io ero pronto a fare ricorso perché c'è una palese violazione della Costituzione. Perché se è vero come infatti è vero, credo che si siano dovuti fermare proprio per quello. Esatto, perché i padri fondatori, i primi 12 articoli, hanno detto che sono emendabili. L'articolo 5 della Costituzione credo che sia chiaro sugli enti locali, sul decentramento agli enti locali, non sull'accentramento a Roma. Quindi voglio dire, mi sembra che questo sia un punto di partenza. Poi che si venga a dire che nei piccoli comuni ci sono degli sprechi, può darsi anche, io parlo della mia realtà e delle realtà che conosco, io guardi sono tra l'altro rappresentante regionale per l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia per la regione Liguria e mi sembra proprio che i comuni piccoli facciano di tutto per mantenere i loro servizi con i pochi fondi che hanno. Invece si sarebbe capito di più andare a fare un'unione dei grandi comuni dove ci sono strutture dirigenziali che hanno costi che veramente porterebbero dei risparmi e poi laddove i piccoli comuni non hanno i servizi si potessero convenzionare con loro per avere quei servizi. E allora io qui la devo interrompere perché il tempo sta finendo. Una delle contraddizioni di questa legge di stabilità è quella proprio che nel mettere 10 grandi città metropolitane, che è esattamente la logica di cui sta parlando il sindaco di Pontebrea Matteo Camiciottoli, lì invece c'è un taglio serio. E allora il taglio serio significa che quelle strutture che poi dovrebbero ottimizzare i costi, e lì ce n'è molti di costi da ottimizzare nei grandi centri, capire vedete che non decollano. Infatti i sindaci delle grandi città, che poi diventano città metropolitane, dicono: noi su questo non siamo in grado di fare nulla, e non ci siamo da questo punto di vista. Comunque, piccola trasmissione per dare un contributo all'idea che si può fare e c'è chi lo fa, e grazie a me personalmente, al sindaco Matteo Camiciotto, e continuate con la 24, appuntamento a domani.